Poi saluto i benvenuti a tutti quanti, signori e signori qui presenti, numerosi. Vi ringrazio e ringrazio soprattutto i nostri ospiti, in primo luogo l'autrice, ecco, che da tanti anni ci delizia con i suoi racconti, con i suoi libri. Anche la devo ringraziare perché ha scelto la biblioteca provinciale, sì, dall'inizio ha avuto fiducia nella nostra piccola biblioteca e ha iniziato a presentare i libri. Vi ricordo quello delle catacombe, della scuola delle catacombe, abbiamo qui una vetrina con quelli che sono stati presentati in biblioteca da noi. Ada Zamperi Zucchero ha una storia particolare che in sintesi però può essere una storia che in parte tocca un po' tutti noi, una storia di viaggi, di radici sempre nuove, di incontri. Una vita anche artistica, perché è un insegnante di musica, una cantante, ma secondo me quello che possiamo apprezzare questa sera è soprattutto il fatto che sa rendere magica una quotidianità di persone semplici che diventano preziose nella sua narrazione, ed è questo che rende magica anche ogni suo racconto. Non è il primo che presentiamo e anzi siamo molto contenti. La Cucchiara è veramente un racconto molto avvincente, molto anche commovente per certi aspetti, ci disvela una realtà forse anche a volte lontana da noi, ma queste limitazioni che la Cucchiara riesce in qualche maniera a vincere sono significativi, ad esempio. E un motivo in più ancora una volta per spingere le persone a leggere per me è un valore aggiunto, perché la lettura è anche una chiave per raggiungere una libertà. Ecco, di questo siamo convinti, e almeno noi come bibliotecari, come amanti della lettura, ci teniamo molto a mandare avanti questo messaggio. Perché organizziamo le letture qui? Gli incontri con le autrici e con gli autori sono per noi un'occasione preziosa di incontrare e di fare incontrare le persone con chi scrive, con chi pensa, con chi ha una fantasia, per trasmetterla agli altri. Il contatto umano è fondamentale. Viviamo in un ambiente, in un mondo velocissimo, non riusciamo a starci dietro spesso, ma forse una delle cose più sicure è il contatto umano, è la socialità. Ed è quello che può anche spingerci a un bene comune nuovo, no? Visto in una forma nuova. Per questo noi andiamo avanti con i nostri incontri. Ringrazio Fabio Zamboni che ci dà una mano nelle presentazioni, lo abbiamo incontrato spesso, è una persona che si occupa da anni anche del settore culturale, nella promozione e nella divulgazione attraverso una testata di un quotidiano locale. Questa sera abbiamo con noi anche Alessandra Limetti, attrice, regista, che darà voce ad alcuni brani di questo nuovo libro di Ada Zamperi Zucchero. Vi ricordo alcune cose, siamo in via Mendola 5 ancora, ecco, lo dico sorridendo, ecco, siamo in via Mendola 5, quindi vi invitiamo a tornarci a trovare se avete piacere di scoprire le nostre novità. Alla fine di ottobre chiudiamo con il premio Claudio Augusto, l'11ª edizione. Se conoscete qualche ragazzo o qualche ragazzo che si sta laureando e si sta occupando di un aspetto del territorio, mandatecelo, ecco, che così lo inseriamo nei nostri premi e gli diamo la possibilità di fare una conferenza sulla propria tesi. Infine, due appuntamenti. Questa settimana sarà la volta anche di Bruna Maria Dal Lago Veneri, giovedì qui sempre alla stessa ora alle 18 con il libro sui fiori, e lunedì prossimo Pittori per l'Impero, un libro sulle cartoline della Prima Guerra Mondiale. Saranno con noi Guido Spada e sua sorella Silvia Spada. A voi la parola, grazie ancora di essere qui con noi e buona serata a tutti. Grazie anche da parte mia, da parte nostra, per essere intervenuti a questo incontro letterario. Grazie alla Biblioteca Provinciale per l'ospitalità. E io in realtà sembro beato tra le donne, ma mi sono anche defilato per non incorrere in questo problema, che è molto più grave e più estremo, nel senso che oltre a loro ci sono tutti i personaggi di questo libro, che è prettamente femminile, i protagonisti, anzi le protagoniste di questo libro sono tutte donne forti che riescono a resistere, poi ce lo racconta anche la nostra autrice, che riescono a resistere in una società e anzi a essere autorevoli e forti, in una società patriarcale, maschilista, come era quella della Sicilia di metà 800, che è il teatro di questo nuovo libro di Anna Zappelli Zucchero. Questo è il sesto libro realizzato, firmato da Anna Zappelli Zucchero, Radici siciliane, studi romani e viennesi e germanica poi d'adozione, ma senza rinnegare le radici, come vediamo con questo ritorno appunto alla Sicilia. È il sesto libro e vorrei ricordare che con i primi cinque Ada Zappelli Zucchero ha collezionato una dozzina di premi nazionali. Questo, che è da poco uscito, come vedete, ha già la fascetta per aver vinto il San Domenichino, un premio letterario nazionale poco tempo fa. Quindi i riscontri ci sono. È un romanzo familiare, e sottolineo familiare con la G, nel senso che è un romanzo su una grande famiglia e al centro della quale c'è questa cucchiara che appunto dà il nome al libro, e il personaggio che addirittura a Catania ha una strada intestata, vi raccontava Ada. Con questo libro Ada Zappelli Zucchero cambia il teatro dove si svolgono le storie che lei ci racconta, perché nei primi libri è stato spesso su Tirolo come il teatro appunto di queste vicende, ma cambia anche stile, secondo me, poi ci dirà se abbiamo ragione l'autrice. In una recensione che ho letto su un suo libro, una sua lettrice aveva scritto che Ada Zappelli Zucchero cammina leggera sollevando un polverone. Questa volta, secondo me, ha un passo pesante ma piacevole, nel senso che le vicende in cui va a ficcare il naso sono più toste, c'è più sangue, c'è più vita, forse anche perché il teatro è diverso in cui si svolgono le vicende. E partirei da questo. Queste radici recuperate, c'è la Sicilia dove è tornata dopo addirittura una pausa di 45 anni. E quando e come è venuta, cioè, ecco, la genesi, come arriviamo a questo romanzo? Ce lo racconta? Questa è una storia molto privata, però so che normalmente le storie private interessano al pubblico, non le storie inventate. Ah, si sente bene così? Dunque, io esattamente 20 anni fa sono stata molto malata, e in seguito a questa malattia, quando l'ho superata e tutto è tornato normale, mi sono ritrovata in una grossa crisi esistenziale, cioè una crisi che ognuno di noi, soprattutto credo le donne, gli uomini non lo so perché non li conosco, ma le donne posso ben dirlo, almeno 2 o 3 volte nella vita hanno, cioè chi sono, da dove vengo, dove vado. Questa è la classica domanda che ognuno di noi si fa. Conclusione: da dove vengo? E mi sono accorta che io vengo dalla Sicilia. Dite voi come si è accorta. Bisogna dire che io sono andata via dalla Sicilia nel 52, quindi è un periodo abbastanza lungo, e non sono più tornata. E come ogni buon siciliano, oppure una certa categoria di siciliani, io ho negato questo essere siciliano, perché è una cosa molto difficile e discriminante. Ancora negli anni 50, quando sono andata a Roma a scuola, mi trattavano da terrona, cioè quella che viene dalla Sicilia, cioè era molto difficile sopravvivere, addirittura a Roma negli anni 50 come siciliana. Man mano io ho perso perfino l'accento siciliano, come voi vi accorgerete, e ho cominciato addirittura a negare di essere siciliana. Quando mi chiedevano all'estero da dove vengo, io dicevo dall'Italia. E da quale paese? Da Roma. Allora tutte le porte si aprivano. Se avessi detto vengo dalla Sicilia, la mafia, e questo e quest'altro, sarebbe stato troppo complicato per me spiegare, eccetera. Allora io mi sono fermata a Roma. Quando invece sono tornata in Sicilia e ho scoperto di nuovo la Sicilia, è stata un'impressione talmente sconvolgente che ho subito, scesa dall'aeroporto più o meno, sono andata in una cartoleria, ho comprato un quaderno e mi sono messa a scrivere quello che io ho chiamato subito infanzia in Sicilia. È nato una specie di diario romanzo. L'ho passato a un mio amico scrittore che si chiama Eraldo Affinati, il quale mi disse: ma io ti do un consiglio, spezzetta questo romanzo in diversi racconti. Dopodiché io l'ho infilato in un cassetto, sono passati 20 anni. Questo racconto li ho tagliati, li ho ritagliati, li ho ricusciti, li ho... E posso dire una cosa molto strana, e mi ha inseguito tutta la vita. Questa è l'origine dell'acqua chiara. E vorrei spiegare che l'acqua chiara in dialetto siciliano significa cucchiaio, perché deriva dallo spagnolo, che anche cucciara è l'unico, si dice la forchetta, il cucchiaio, ma in siciliano si dice la cucchiara. Ecco, e il nome deriva dal fatto che questa donna, che era ricchissima ed era molto generosa ed era una ostessa, lei dava sempre cucchiaiate di cibo alle persone che avevano bisogno. Ecco perché è stata soprannominata la cucchiaia. Questo lo dovevo a una signora che mi ha chiesto come cosa significa questa cucchiaia. Ecco, per essere stata lontana così a lungo dalla Sicilia, dimostra però dentro questo libro una... di avere una profonda e intima conoscenza della, anche della storia e della geografia e della lingua e dei caratteri della Sicilia. Quindi è riuscita, ha fatto anche uno studio per recuperare questo, questa cornice precisa. Ma certamente. Dunque, quando ho scoperto, scusate se dico questa parola, di venire dalla Sicilia decisamente, ho cominciato a leggere libri sulla storia siciliana, ho una mezza biblioteca di libri per imparare la storia del mio paese. La cosa sembra molto strana, però è così. Cioè io mi sono riavvicinata alla mia terra attraverso la sua storia, e questo qui mi ha naturalmente aperto molte visioni di questo popolo e di questa terra. Io darei spazio alla prima lettura, che su questo infatti. C'è la prima pagina del romanzo. 20 anni dopo l'unità d'Italia, quando in Sicilia ormai tutti erano convinti di avere un altro padrone di casa, forse peggiore del primo, nel 1880 fu inaugurato a Catania il nuovo ospedale, intitolato al re Vittorio Emanuele, in sostituzione dell'ospedale di San Marco, caduto in disuso. Dalle parti della chiusa del Tindaro, il padre di Ciccia, allora non ancora conosciuta col nome di Cucchiara, già da anni era proprietario di una bettola e di alcune terre lì intorno. La fortuna volle che il suddetto ospedale venisse costruito proprio di fronte alla sua bottega. Il nuovo re, dopo circa 20 anni, porta almeno un po' di lavoro, aveva pensato l'oste, e con esso una quantità di clienti di vario genere. Ma come non bastasse, le terre di sua proprietà, fino ad allora adibite solo alla coltivazione di frutta e verdura, furono dichiarate aree fabbricabili. Nel corso degli anni, alle case già adiacenti se ne aggiunsero altre, in molta parte costruite per conto dell'oste, tanto da costituire col tempo il cosiddetto quartiere della Cucchiara. L'oste e la figlia a lungo ricordarono la guerriglia tra borbonici e insorti, lo scambio di fucilate e colpi di cannoni proprio a pochi passi dalla loro bottega, e speranzosi, come tutti, che quella fosse l'occasione buona per liberarsi dall'odiato regime dei napoletani. L'arrivo di Garibaldi, per loro Garibaldi, era stato motivo di grandi entusiasmi, di giornate infuocate in cui ancora una volta erano risuonate parole come libertà, indipendenza, risvegliando vaghe speranze di rinnovamento anche in qualche cliente, di solito disinteressato a questioni di politica. In fondo, la prospettiva di un futuro migliore, e cioè il lavoro sicuro e giustamente remunerato, ma anche di ordine e di giustizia, come si diceva, promettesse il nuovo governo, metteva un certo calore nelle discussioni che si accendevano nella cutia. E se poi questo nuovo re era un piemontese, cioè uno straniero, poco importava, tanto ormai da secoli erano abituati a essere governati da gente che veniva da fuori. Per lui, come oste, era importante che i suoi clienti, fra un litigio e l'altro, continuassero a bere, ma senza scaldarsi troppo. Molto di rado si lasciava scappare qualche parola di commento e la sua opinione, il suo scetticismo erano conosciuti da tutti. Un re vale l'altro, diceva. Se poi veniva da Napoli o dal Piemonte o da casa del diavolo, non sarebbe cambiato niente. Speranze di indipendenza, di autonomia, tutte inevitabilmente tradite dagli avvenimenti successivi. Un piemontese, infatti, prendeva il posto del napoletano, cioè di male in peggio, queste le loro considerazioni, del resto condivise dalla maggior parte dei contemporanei. Da sempre la Sicilia era stata separata dal cosiddetto continente, non soltanto dallo stretto di Messina, ma da secoli di storia, di usi, di costumi arcaici appartenenti a un passato ancora assai vivo nell'Ottocento. Un elemento essenziale che separava non soltanto in modo spaziale l'isola dal resto del continente era la lingua. Il siciliano non era un dialetto, ma una vera lingua antica, con grandi tradizioni letterarie risalenti al Medioevo, coltivata da scrittori, da uomini di scienza, che non nascondevano il loro disprezzo per l'italiano, che chiamavano con una certa sufficienza la lingua del lei e del lui. Non bisogna dimenticare che nella Sicilia di prima dell'unità la lingua ufficiale per gli scambi commerciali e politici era il francese, e come del resto anche il Piemonte. Grazie. In questa società patriarcale la Chiara è una donna un po' speciale, perché è ricca, è istruita, ha una sua autorevolezza particolare, e tra l'altro possiamo rivelare che c'è anche una lontana parentela, quindi è un personaggio realmente vissuto e non so se conosciuto comunque. No, io non l'ho mai visto, però ho sentito tutta la mia infanzia parlare della Chiara. Nella tua prefazione al libro del sociologo Orazio Balastro c'è una definizione di queste, della Chiara e delle altre donne che sono protagoniste, che intrecciano la loro vicenda con quella della Chiara, o per parentela o per aver sposato qualche altro parente della Chiara. E Orazio Balastro dice che sono un archetipo della modernità queste donne, parliamo di fine 800. In che senso sono, come leggerei questa definizione? Soprattutto una cosa molto importante nella Chiara è il suo senso di indipendenza, cosa per una donna meridionale, ma anche per tutte le donne nel mondo fino alla fine dell'Ottocento, se non del Novecento, io non voglio fare delle polemiche, è una delle cose più problematiche. Una donna indipendente è sempre sospetta, e lei era una donna veramente indipendente. Da dove le derivava questa sua indipendenza? Si può dire perché era molto ricca, ma ci sono molte donne ricche che non sono affatto indipendenti. Cioè lei era interiormente una donna indipendente, ed è una cosa molto importante, perché questo suo essere indipendente mi è stato instillato fin dalla prima infanzia dai racconti di questa donna favolosa che non ho mai visto, e che praticamente mi è stato quasi come esempio, cioè una donna che infatti era definito come una specie di uomo, perché un uomo può essere indipendente, mai una donna. Ma lei era una donna, tant'è vero che ha avuto anche un grande amore, si è sposata 3 volte, cioè non era certo, no, e quindi era una donna, veramente donna, però nella maniera più positiva possibile per noi di questo secolo, 100 anni dopo, posso dirlo. Ecco perché mi è rimasta come veramente un archetipo per me. È un esempio che mi ha seguito tutta la vita, fin dall'infanzia. E ci può delineare un altro personaggio di questi che intrecciano la storia, perché sono molto interessanti: Agata, Sara, Anna. A quale è venuto più bene? È riuscito più facile? Dunque, io personalmente posso dire che la Chiara aveva un particolare amore per Agata, che è stata, questo forse è bene che lei legga qualche cosa del suo incontro col terzo marito, perché era la figlia del suo terzo marito. Lo facciamo subito. Facciamolo questa lettura, perché è molto interessante, perché si vede quanto effettivamente lei è donna, perché non ha mai avuto figli. Lei non ha avuto, però li desiderava tanto. E finalmente arriva esattamente quest'uomo che gliene porta una mezza dozzina, se non di più. Vabbè, questo lo legge adesso lei. Ecco un uomo che sapeva andare subito al sodo, capace di grandi sentimenti, che non temeva le parole, sapeva esprimersi, e donna ciccia, che non aveva mai incontrato un uomo simile, ne fu assai impressionata. Gli chiese però di darle tempo, di farle conoscere i bambini, di portarli un pomeriggio direttamente in casa, senza passare dalla coppia. Gli mostrò la via, il cortile, il portone. Fissarono subito il giorno e l'ora. Anni dopo, raccontando questo importante episodio della sua vita, diceva: «Mi sono messa la corda al collo, me ne accorsi appena andò via. Il destino aveva bussato per la terza volta alla mia porta e io non dovevo fare altro che aprire. Due figli, aveva detto, e io non ero riuscita a mettere al mondo neanche uno. Col ballerino aveva pensato di essere troppo giovane, il suo corpo non ancora maturo per metterci un seme, anche se il seme era così incandescente che avrebbe potuto attecchire anche su un terreno secco e sassoso. Col secondo considerò quel seme assai debole, insicuro, allora tentò con alcuni stalloni che avrebbero dovuto assicurarle una prole forte e generosa, essendo loro stessi padri di molti figli. Il risultato fu quello che fu. Niente. Era una terra incapace di dare frutti, arida, sterile, come un deserto. Una mula, si definì lei stessa, non senza amarezza. Aveva dovuto mettersi il cuore in pace e ora due bambini le piovevano dal cielo e alla sua età. E come rifiutare? Da bambina, un bastone per la vecchiaia e due eredi per il suo patrimonio. Una famiglia vera, affetti sconosciuti. Lasciare la solitudine della sua casa, quel lavoro diventato inutile che già la stancava. Poi per chi ammucchiare tanti denari? Conseguenza di quella prima visita furono pensieri e pensieri. Notti insonni piene di pensieri e nessuno può confidarli. Per la prima volta si accorse di non avere nessuno con cui parlare, con cui consigliarsi. Fino ad allora non era stato mai necessario, la vita non aveva avuto bisogno di parole e neanche di pensieri. Tutto aveva seguito il suo corso, senza alcun intervento, senza forzature. La sera, quando andava a letto, sapeva cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Un pomeriggio d'autunno, il padre chiamò due bambini più piccoli, Agata di 6 e Natale di 2 anni, cosa assai sorprendente, dato che fino a quel momento sembrava non essersi neanche accorto della loro presenza, e fece loro un breve discorsetto. Dall'alto della sua autorità li informò che avrebbero fatto una passeggiata in carrozza per andare in una casa dove, gli avvertì, dovevano starsene zitti e buoni, cosa che avrebbero fatto in ogni caso. I bambini erano abituati a non aprire bocca in presenza degli adulti, ma questa volta i suoi occhi erano particolarmente severi. Era chiaro che si trattava di una cosa molto seria. Quelle poche parole erano rivolte in modo particolare alla bambina, che in qualche occasione aveva dimostrato di avere la lingua inopportunamente sciolta. Natale, al contrario, sapeva esprimersi solo a forza di urli, quindi gli disse di starsene zitto e basta. Il padre bussò e una voce femminile, dopo qualche tempo, gridò: «Cui è?» Subito rispose l'abbaiare furioso di un cane. Il padre, con quel suo tono autoritario che metteva sempre tutti sull'attenti, gridò il suo nome e il portone si aprì. Qui seguì nel giro di pochi minuti una scena che in seguito nei ricordi della famiglia si sarebbe confusa nelle sue fasi successive, anche per l'inesattezza del racconto dei vari protagonisti. Una specie di mostro, un enorme cane nero legato a una catena in fondo al cortile, prese a saltare, a abbaiare come impazzito, cercando di liberarsi. Con uno strattone, infatti, riuscì a staccare l'anello dal muro con cui era fissata la catena e, in men che non si dica, si gettò su Natale, che, come suo solito, se ne stava proprio davanti alla porta, in prima fila. Anche questa volta voleva essere il primo. La bambina, invece, era rimasta buona buona dietro il padre, come era giusto che fosse, essendo una femmina, e così accadde quel che doveva accadere. Don Ciccio, prevedendo tempestivamente il pericolo, sollevò il bambino da terra, mentre con un piede cercava di tenere a bada quella bestiaccia che intanto gli gridava «Accuccia! Accuccia!». Fuori di sé, il cane afferrò la gamba dell'uomo che con un calcio poderoso riuscì a farlo ruzzolare proprio in mezzo al cortile. In quel momento, uno sparo interruppe quella scena selvaggia. Qualche secondo prima, una donna aveva attraversato di corsa il cortile e ora, col fucile fumante ancora imbracciato, se ne stava sulla soglia della casa, attenta e pronta a sparare un secondo colpo nel caso il cane si fosse mosso. La mira era stata perfetta. Come colto dal fulmine, quel mostro infatti era crollato sul momento, stecchito. Questo fu il primo incontro della cucchiaia con la nuova famiglia. Allora, questo mi sembra un bel esempio di quello che si diceva prima sul cambiamento di stile, no? Non un cambiamento radicale, ma che il polverone comincia a sollevarlo, tutti da tunnel, non facciamo fatica a darci da me. Comincia a sollevarlo già nella scrittura, insieme ai contenuti. È così incandescente che è impossibile. Noi di materia prima, uno degli ingredienti è rappresentato dai proverbi siciliani. Chiaro. Se ne ricordi magari uno che sia un bel esempio di saggezza tra quelli che hai sciorinato? Dunque, la cucchiara era una donna che parlava a proverbi. Lei praticamente non diceva delle frasi sue, pensate, semplicemente perché diceva che tanto tutto si ripete, quindi è inutile trovare altre frasi. La vita è una continua ripetizione di azioni e di pensieri. Quindi lei ripeteva sempre gli stessi, cioè lei si esprimeva, appena accadeva qualcosa lei subito aveva il proverbio pronto. Per esempio, quando lui venne questo signore che poi è diventato suo terzo marito, disse un proverbio molto importante, e cioè, adesso naturalmente non mi viene in mente, posso guardarlo un secondo? Un momento, dunque. Voleva dire che una casa... lasciamo perdere, è un buco nel cervello, scusate tanto, non lo posso trovare. Ad ogni modo lei diceva che una casa, e che lei non aveva nessun motivo di mettersi un uomo in casa, perché lei bastava a se stessa. Al che lui rispose: casa senza uomo, casa senza nome. Senza nome, si dice casa senza uomo, casa senza nome. Al che lei rispose: io ho avuto due mariti che mi hanno dato un nome, e se non bastassi io stessa. Questo qui è molto importante, che il proverbio che disse lui voleva in un certo senso dare a lei il senso della sua piccolezza, essendo una donna, senza un uomo non vale niente, neanche la sua casa vale niente. E questo per lei fu naturalmente un punto molto, molto duro da accettare. Una cosa che vorrei subito accennare, che quando questo cane si chiamava Curie, che vuol dire chi è. E questo è molto importante, perché credo che nessuno l'abbia capito. Per cui quando qualcuno bussava, lei chiedeva chi è, e il cane saltava subito. Questo è in particolare molto importante, perché me lo ricordo sempre, che mi piaceva tantissimo da bambina, e non le racconti, devo dire, che mi faceva mia madre. Allora, il cane Curie era il cane che è sempre pronto dietro la porta, se lei soltanto, se qualcuno bussava, lui era sempre pronto. E questo gesto di uccidere il cane fu decisivo, e lui lo capì anche, che in tal modo lei aveva deciso di sposarlo. Adesso vorrei fare una pausa molto importante che ho scoperto durante il mio ultimo viaggio a Catania. Io sono andata all'archivio diocesano per cercare il certificato di matrimonio di questa cucchiara e di questo signore, di questo Don Ciccio. Lei si chiamava Donna Ciccia, un caso strano. Allora, io sapevo perfettamente il nome, e l'archivista, che era una persona molto gentile, molto strana, perché se due giorni ha lavorato per me, non ha trovato nessun documento. Nessun documento del matrimonio di questa donna Ciccia con questo signore. Allora lui mi mise un sospetto che racconto per la prima volta in pubblico. Lui mi disse che questo mi chiese se sapevo dove si erano sposati. Si erano sposati in casa di lei. Lui, essendo un lufticus, si dice in tedesco, ma come devo dire, un piccolo imbroglione, perché fosse un uomo anche lui molto importante, però era un abituato a imbrogliare la gente. Lui, con ogni evidenza, lui ha detto: io suppongo che lui abbia preso quattro persone, quattro attori che hanno fatto la parte di essere l'ufficiale giudiziario, il notaio e vatte la pesca, che cosa, lei ha firmato una carta che non valeva niente, e così lei era convinta di essere sposata, mentre invece non lo è mai stata. Questa è una cosa che mi ha colpito veramente, perché la realtà è questa: nel momento stesso in cui lei disse di sì, lui la portò da un notaio, un vero notaio, dove lei firmò che avrebbe dato a lui tutti i suoi liquidi, ed era famosa per avere un patrimonio di monete d'oro, veramente. Però le case, le aveva tutto un quartiere, restavano a lei. Cioè lui divise in questo modo perché non c'era altra possibilità. Conclusione, lui si impossessò di tutti i soldi di questa donna, dicendole di essere sposato. Una cosa proprio scioccante, devo dire. Ma lui mi ha detto una cosa molto importante: guardi che non sarebbe stata la più donna. Questa è una cosa che mi ha veramente fulminato, volevo raccontarlo perché ho fatto veramente tante ricerche di archivio eccetera, non è venuto mai fuori che quest'uomo fosse stato sposato con questa donna. Fantastico, no? Una storia fantastica, poteva accadere soltanto in Sicilia, scusate. Lui mi ha detto: ma non sarebbe stata la prima volta, sa? Ha ingaggiato quattro attori e lei ci è cascata. Ci ha visto le case, però se l'avesse sposata avrebbe stato diventato proprietario anche delle case. Infatti lui non ci teneva le case, lui aveva bisogno di quei liquidi. E lei aveva moltissimi liquidi. Adesso viene fuori la storia dei liquidi, che era conosciuta in tutta Catania per il suo. Aveva una montagna di monete d'oro, ma veramente il tesoro nascosto. In questa Sicilia così tosta c'è però anche spazio per la superstizione e anche per il fanatismo religioso, che viene fuori nel racconto, nel secondo racconto, quello legato ad Anna. Accenniamo questo elemento di... Sì, questa donna che avrebbe tanto voluto essere una strega e purtroppo non lo fu mai, mentre invece la Cucchiara aveva anche il nome di essere una strega. E questo qui è anche molto importante, perché lei era una famosa guaritrice. Lei aveva una mano santa, diceva. Infatti non riceveva mai soldi, perché ho letto anche dei libri su queste superstizioni, eccetera. Quando effettivamente una persona è un guaritore, non deve prendere un compenso, altrimenti lo Spirito Santo non le fa il miracolo. Quindi aveva sempre la fila dalle 5 di mattina di tutta la gente che veniva curata da lei. Questo qui già era un punto molto importante della sua essere così famosa a Catania. Era una donna veramente famosa, oltre che per tutti i suoi soldi eccetera, anche perché era una famosa guaritrice. Mentre invece questa Anna, poveretta, lei avrebbe voluto tanto essere una strega, ma non gli riusciva mai. Non è riuscita a fare neanche la strega, poveretta. Parlavamo prima delle nozze. Parliamo delle nozze, ma direi di farlo attraverso un bel che riguarda la notte di... La notte di matrimonio, la prima notte di nozze della Cucchiara. Firmato il contratto davanti al notaio, fu stabilita la data delle nozze. Lui non poteva permettersi, per via dei bambini, un lungo periodo di lutto. Si sposarono nella sua casa dietro alla cuffia, alla buona, senza invitare nessuno, soltanto l'ufficiale di stato civile e più i testimoni. Nonostante la semplicità della cerimonia, lei volle mettersi il vestito di seta nera che aveva indossato al funerale della buon'anima, il secondo marito, un vestito che le era bussato con occhio della testa. E non era giusto che restasse chiuso nel cassettone. Un bellissimo grembiule di seta nera, tutto ricamato a mano, più uno scialle con una lunga frangia e una quantità di collane, anelli, bracciali e un paio di orecchini di brillanti comprati per l'occasione, completavano l'abbigliamento. Lei aveva una cassetta di gioielli che avrebbero fatto gola a più di un gioielliere e in cuor suo già li aveva destinati alla femminella. Alla fine, insieme ai testimoni e all'ufficiale di stato civile, brindarono con un bicchiere di vino, di quello buono, e mangiarono i biscotti che aveva fatto preparare da un fornaio di fiducia. Andati via tutti, Don Ciccio chiese di vedere i famosi cuffini di monete d'oro. Era nel suo diritto, dato che ormai gli appartenevano per contratto, una domanda del tutto legittima, della quale lei non si meravigliò neanche un po'. Erano allineati sotto il letto, quello nel quale aveva dormito prima col ballerino e poi con la buon'anima. Un letto nero come un catafalco, fatto costruire con tutti i sacramenti dei suoi genitori. Neanche la lava dell'Etna avrebbe potuto smuoverlo da lì. E infatti, per poter raggiungere i cuffini, furono costretti a smontarlo pezzo dopo pezzo, dato che era impossibile spostarlo dal suo posto né infilarsi sotto. Lavorarono di comune accordo, in silenzio, togliendo prima la sopracoperta di cotone bianco, poi le lenzuola, i materassi di crine, che erano quattro, poi le tavole e infine le due sponde e la testiera. Tutto. Lui disse che tanto quel letto non sarebbe più servito a nessuno. Al contrario, per donna Ciccia, ogni pezzo che smontava significava staccare una penna di fegato dall'anima, una rinuncia al suo passato, con un presente e un futuro pieno di incognite. Quel letto era stato un testimone muto e consenziente, sempre discreto, per un numero infinito di anni. Il letto dei suoi genitori, dove era stata concepita, dove era nata, dove aveva conosciuto l'amore, quello vero, col suo ballerino. E le prime volte aveva avuto difficoltà a lasciarsi andare per rispetto verso la memoria di sua madre. Lì infatti era aspirata quella santa donna davanti a lei bambina, che non capiva cosa stava succedendo. Fino a poco tempo prima aveva creduto che anche lei sarebbe morta lì, con indosso il suo vestito di seta nera, il grembiule e il resto. E invece doveva aiutare uno sconosciuto a smontare, pezzo dopo pezzo, la parte più importante della sua vita, come una cosa inservibile, da buttare via. Insieme a quel letto eliminava tutto quanto aveva contato fino a quel momento, la sua identità di donna indipendente e la sicurezza di sapere che cosa le riservava il futuro. Ora la aspettava il letto di un'altra, così aveva deciso il destino. Infine, i cuffini vennero fuori e Don Ciccio sgranò gli occhi, non aveva mai visto tanto oro in vita sua. Disse subito che voleva contare le monete. Donna Ciccia, senza una parola, allargò un lenzuolo per terra e lo invitò a versarci dentro tutti i cuffini. Ne venne una montagna di ducati d'oro che lo impressionò oltre ogni dire. I suoi occhi luccicarono di una luce che non piacque alla donna. Ma fu la prima e l'ultima volta che vide quella luce, solo che non la dimenticò mai. Si sedette per terra, lui così elegante, senza neanche levarsi la giacca, e si mise a contare, rimettendo le monete nei cestini. Lei non lo aiutò. Si sedette nella sua poltroncina e aspettò, tacendo. Ogni tanto mangiava un biscotto, beveva un bicchiere di vino per tenersi sveglia, e così trascorse tutta la notte, la prima notte. La trama di questo libro è veramente ricca, c'è dentro di tutto, dal delitto passionale alla violenza. Scusa, interrompo per un secondo, cioè, mi viene in mente un proverbio siciliano, si sa dove si nasce ma non dove si muore. E questo qui è veramente, in dialetto siciliano si sa, ma si sa dove si nasce ma non dove si muore. Il mio siciliano è molto avventuroso, però è vero, perché lei infatti pensò questo: io sono nata qui ma non avrei mai immaginato che vada a morire da un'altra parte. Questo lo posso dire anche per me, lo possiamo dire tutti. Non sappiamo dove nasciamo, sappiamo dove nasciamo ma non dove moriamo. Questa è la saggezza siciliana, scusate. Ecco, dicevo che la trama è molto ricca, c'è il delitto passionale, la fuga, c'è il tradimento, ma c'è qualcosa che non hai voluto o non hai potuto mettere nel libro, che hai tenuto magari per un seguito, vista la ricchezza di materia prima? Dunque, questo lavoro mi è costato, posso dire, tutta la vita. Se io penso che tutta la mia infanzia sono stata... Allora, devo raccontare una cosa fondamentale. Mia mamma aveva la passione di raccontarmi delle cose. Non mi leggeva dei libri, fiabe, questo lo facevano i miei fratelli, eccetera. Lei mi raccontava sempre le storie della cucchiara. E questo mi ha seguito tutta la vita. Praticamente la primissima cosa che ho scritto quando mi sono sentita molto sconvolta da questa nuova impressione siciliana, e poi dovevo scrivere della cucchiara, scusate, di chi potevo scrivere se non della cucchiara? Era per me è quello che si dice in tedesco, ein Muss, ero costretta a scrivere di lei. Tutto quello che è venuto dopo è stato praticamente uno sviluppo, diciamo, di tipo letterario, ma da un punto di vista emotivo, il primo input, la prima veramente necessità puramente mia è stato quello di scrivere della cucchiara, perché un personaggio così non può morire, scusate, non può essere dimenticato, veramente no, era una donna. Quindi possiamo aspettarci un seguito? La cucchiara ormai è finita, no? Ci sono semmai altri racconti siciliani che descrivono proprio un ambiente siciliano subito dopo la seconda. Sì, la seconda guerra mondiale, subito dopo la seconda guerra mondiale. Però le storie della cucchiara sono concluse qui adesso. Ma non della Sicilia. Non della Sicilia. Dal Sud Tirolo alla Sicilia, perché molti racconti. Più estremo di così. Poi erano diventati quindi. Ancora con le donne protagoniste. Affinità e differenze tra le donne sicilianesi e quelle siciliane. Allora, io credo di aver già risposto a questa domanda che abbiamo fatto in un'intervista, e cioè in realtà se c'è qualche differenza è soltanto dovuta a questioni climatiche, perché in realtà tutte le donne del mondo hanno le stesse necessità, hanno gli stessi problemi, le stesse, viviamo tutti in un certo mondo organizzato in tutte le parti del mondo in un certo modo che ci costringe anche a reagire in un certo modo. Le donne, per esempio, sia in Sicilia sia nel Sud Tirolo, sono quelle che sono costrette a lavorare in casa, per esempio, ma questo lo sono in tutti i paesi del mondo. Hanno anche loro delle passioni, come le donne siciliane, le donne sudtirolesi, certamente, anche se sono tutti e due i tipi di donne anche sottomesse a delle usanze, a delle tradizioni. Io non trovo che ci siano molte differenze, devo dire. E con un intreccio così ricco di trame, eccetera, non hai pensato per un attimo che ti piacerebbe vedere trasposto questo libro in un film? Scusate, orrore! No, perché ci sarebbe... No, perché bisogna dire che Ada ha una... è molto versatile, perché passa dal canto lirico alla pittura, no? È una ricchezza di espressione. No, ma se dovesse essere fatto un film dovrebbe essere una persona che vede questo personaggio a modo suo. Certo, ci metterebbe mano, quindi... Stiamo bene. Non lo so, non riesco a immaginare come si possa interpretare questa cucchiara. Questo è un personaggio assolutamente favoloso, vissuta sul serio veramente. È un personaggio molto ricco. Quindi nel cassetto allora abbiamo già un prossimo libro? O... Dunque il prossimo libro è già uscito, che non te l'ho dato, scusami tanto. Questo è un libro di racconti, un libro di racconti dal titolo molto promettente, e cioè Storie di donne e altre creature. E voi potete immaginare di quale creature si tratti, no? Ecco, questo qui è già praticamente già uscito ed è in due lingue, in italiano e in tedesco, già direttamente destinato alle persone che studiano il tedesco o l'italiano. Ma è già pubblicato? Pubblicato, sì. Devi scusare, perdonare, non te l'ho fatto, non te ne ho raccontato niente. Parliamo un attimo dell'editore che si nasconde in fondo alla sala. Oh! Perché Adolf Zucker ha pubblicato con vari editori e qualche volta con soddisfazione, ma più spesso con qualche sì, problema. Ma non credere che con quest'ultimo sia soddisfatta, eh? No, e quindi la scelta radicale è stata quella di creare una casa editrice in casa, tutto per quello si chiama casa editrice, mi piace. Con un nome molto originale che si chiama Ferlacone Gerez. È una scelta che consiglierebbe a chi non riesce ad arrivare per vari motivi, non solo per la qualità, certo, anzi spesso non per quella, al grande editore nazionale. Io devo dire che incominciamo che io questa casa editrice senza soldi non la volevo e abbiamo quasi divorziato, proprio ero assolutamente contraria, quindi io non c'entro, punto primo. Punto secondo, avere una casa editrice o a disposizione non significa che pubblichi i libri che voglio io. Tanto per cominciare, tanto per dire come stanno le cose. Come vedi, con gli editori ho sfortuna, perfino con quello che ho in casa. E questo qui è un discorso veramente, ma è vero, è autentico, perché lui ha altri principi che non sono i miei principi. E ho detto però, il fatto di avere un libro pubblicato è soltanto l'inizio di un'avventura, perché anche un grande editore in fondo può anche pubblicare un libro e metterlo in cantina e farlo sparire. Questo non è una garanzia di successo, né il grande editore né il piccolo editore, e neanche l'autore, scusate se lo dico, in realtà chi decide siete voi, siete voi lettori. Allora, se voi volete leggere un libro, non vi posso costringere né io né un grande editore. E questo qui è il problema fondamentale. Quindi, coi tempi nei quali viviamo, dove veramente con sistemi digitali e vate la pesca, chiunque può stampare il proprio libro, poi resta col libro in mano. Questo è un fatto veramente molto, molto grave, ma è così. Però vorrei dire una cosa che mi gira in testa continuamente, e cioè oggigiorno tutti quanti si lamentano più o meno che tutti scrivono, mentre prima c'erano pochissimi autori, mentre adesso ce ne sono più autori che lettori. Da che cosa dipende? È una cosa molto importante che mi è venuta, e cioè ognuno di noi ha bisogno di comunicare, e siccome la comunicazione con l'altro oggi è sempre molto più ridotta, cominciamo a comunicare finalmente con noi stessi, perché nel momento stesso in cui ci mettiamo a scrivere abbiamo la necessità di comunicare con noi, di pensare, di riflettere, di mettere sulla carta. Quindi lo scrivere è un segno veramente di estrema solitudine. Una persona più è sola, più ha bisogno di scrivere. Se ci fosse una vita sociale molto più intensa, cioè se la comunicabilità fra l'uno e l'altro fosse molto più sviluppato, come forse da 50 anni fa, tutta questa gente che scrive non avrebbe necessità di scrivere. Questo è un pensiero che mi è venuto molto recentemente. C'è una che è d'accordo con me. È vero. Perché allora uno nella propria solitudine, questo non significa che uno può essere avere questo senso di solitudine anche in una famiglia. questo non ha a che fare con la presenza, diciamo, corporea di una persona. Uno può essere solo anche in una famiglia, e così a un certo punto ha bisogno di comunicare, e con chi? Con se stesso, e questo è il migliore modo di comunicare, perché finalmente comincia a conoscersi. E poi una storia che non è scritta non è mai esistita. Esatto. E quindi ecco la necessità, certo, di dire, la devo, so qualcosa da dire. Certo, certo. Quindi ecco, è molto importante. Altrimenti non è mai esistita. Certo, certo. È vero. Su questa riflessione così profonda io lascerei la parola al pubblico. Sì, al pubblico, se qualcuno ha delle domande da fare, se qualcuno magari ha già letto, certo, il libro. Allora, finito le prego. Grazie. Allora, io sono un siciliano, wow, catanese. Accidenti. Sto sentendo parlare lei di Catania. Ecco, io sono qui a Bolzano dal 64 e quindi questa storia che lei mi ha raccontato mi ha un po' portato a tornare indietro. Certo. Fra lei, se le chiedo da dove proveniva quando è nata in Sicilia, da che zona? Provincia di Catania o... No, no, io sono nata a Catania, esattamente a Via del Velo 10, so fortino l'indirizzo. Catania è città. È da, è Via Plebiscito. Via Plebiscito, sì. Da questa parte, che adesso è cambiato moltissimo, moltissimo, è riconoscibile. Sì, sì, conosco benissimo quei posti perché ho studiato e sono andato sempre a Catania. Adesso è dal 64 e sono a Bolzano. Mi è sembrato strano il fatto che lei per tantissimi anni non ha sentito la necessità o la curiosità di tornare verso Catania. No? Questo forse infatti della sua vita non mi ha permesso, ma quando è tornata ha trovato qualcosa di completamente modificato. Ma una cosa che volevo sentire era questa signora Cucchiara, perché inizialmente non avevo visto questo, pensavo che si riferisse alla posata. E invece se sì, invece della personificata in una donna che si effettivamente è vissuta in questo periodo nella zona dove era, nella zona di San Marino. E la via della Cucchiara. Sì, che adesso si chiama via Furlanini dal 1903. Ho capito. Sì, quindi questa donna praticamente fra le cose vere e la fantasia che poi aveva raggiunto, naturalmente parlando adesso di un romanzo, praticamente sono fatti avvenuti, modificati dalla autore, sì, dalla scrittrice, che credo che sia molto in campo. Molte grazie. Io volevo aggiungere che quando è venuto fuori questo libro è venuto un grande articolo sulla Sicilia, che è un giornale di Catania, con questo titolo: La Cucchiara era una donna. Scusate, la gente era completamente... La Cucchiara era una donna. E caspita, era una donna. E non solo, ma recentemente, forse un mese fa, ho ricevuto una critica di una persona che si occupa di toponomastica femminile, la quale ha intenzione di fare ritornare il nome originario in questa strada che si chiama via Forlanini, e che invece ogni buon catanese sa che è la via della Cucchiara. Adesso c'è perfino un libro, cioè non adesso, ma è stato scritto un libro su tutte le strade di Catania, dove viene fuori il nome anche della via della Cucchiara, chiaramente. E questo signore, che era fra l'altro uno storico molto serio, non conoscendo la Cucchiara, attribuiva il nome a un frontista che lui non sapeva chi fosse, oppure a una bottega, cioè una osteria della Cucchiara, dove c'era un'insegna, una grossa insegna con un cucchiaio. Con un cucchiaio. E invece era una donna. Una donna. Era una donna. C'è un altro intervento. Prego. Prego. Posso? Io sono una moglie, alto a tesina totale, alto a tesina, sottolineo, alto a tesina totale. Io credo di aver sentito un po', sottolineo un po', la Sicilia descritta un po', ripeto, un po' al negativo. Io l'ho trovata tutta al positivo. Io sono stata accolta 100 volte con 100 cuori. Io ho visto la differenza che c'è fra le donne siciliane e le donne altoatesine. Sì che c'è, non solo perché le donne siciliane sono ancora un po' più sottomesse, ma le donne siciliane hanno molto più cuore, sono più espansive, sono più ospitali. Le donne altoatesine non sono così ospitali, non sono così. Lo dico dalla mia esperienza certamente personale. Allora, questo ha a che fare con le questioni climatiche, questo assolutamente. Quando si vive in mezzo alle montagne e col freddo e con tutte le difficoltà che ci sono, l'essere umano ha necessità di indurirsi per superare queste difficoltà. E quello l'ho detto fin dal primo momento, cioè le differenze fra un popolo e un altro nascono anche da questioni climatiche e questo non si può negare. Poi voglio dirle un'altra cosa molto importante, lei era un ospite, io sono siciliana e quindi quando guardo queste persone le vedo con altri occhi suoi. Ora non voglio assolutamente negare che i siciliani abbiano un gran cuore, che sono molto affettuosi, molto calorosi, tutto quanto, per carità, sarei l'ultima a dirlo, sono anche io così. Diciamolo, io accolgo sempre tutte le persone come ho imparato dalla mia famiglia e dalle mie origini, però devo dire che ci sono effettivamente delle differenze date e veramente da questioni climatiche. Quando lei vive in un posto dove c'è sempre sole, dove c'è sempre caldo, dove non deve lottare con la natura, eccettuato con l'Etna, vabbè, allora sviluppa anche un altro carattere. E questo è molto, molto, questo non lo invento io, guarda, non me lo sto inventando io. Questo lo sanno le persone che studiano l'antropologia e i caratteri delle persone, che sono molto, la ringrazio moltissimo. No, no, ma la Sicilia per carità ci mancherebbe altro. C'è qualcosa? È la tua domanda personale. Sì. Volevo sapere, ho capito che lei dice delle... Io vivo in Germania. Io vorrei sapere quanto la Germania ha influito sul suo carattere. Questa è una bellissima domanda. Dunque, a casa mia mi dicevano sempre da bambina: tu sei una tedesca. Cioè, da un punto di vista del carattere, io ero sempre molto intollerante, molto precisa, molto ordinata. E questo fatto era per la mia famiglia veramente insopportabile. Diciamo, tu sei una tedesca, quindi praticamente mi sono ritrovata benissimo. No, non sanno neanche che sono siciliana, ma è veramente molto interessante perché io sono straniera in Germania e straniera in Italia, ma mi trovo bene così. Ma è vero, guardi, la mia famiglia mi diceva tu sei una tedesca. Era una predestinazione. Evidentemente, no, no, veramente, è vero, è vero. Un'ottima domanda, effettivamente. Va bene, c'è un'altra domanda? Sì, buonasera. Volevo precisare che il libro è interamente dedicato alla vita della Chiara. E invece sulla morte della protagonista sono spese pochissime parole, tra l'altro con grande garbo, credo, perché se ne parla nel racconto di Agatha, se non sbaglio, quando si dice che la Chiara si lasciò morire per poterne lasciare un futuro migliore. E credo che in quell'episodio lei si riferisse più che al lascito delle case, al suo progetto di riunire la famiglia, al fatto che Agatha riuscisse a convivere serenamente con i fratelli. Il progetto però fallì. Volevo appunto chiederle come mai ha deciso di dedicare così poco tempo a questo aspetto della storia della Chiara. E poi una domanda tecnica: gli incisi che lei riporta in corsivo nel libro, come mai li ha selezionati in questo modo? Cioè, lei vuole lasciare un messaggio particolare con quegli incisi? Grazie. Allora, a questa seconda domanda non posso rispondere. Mi dispiace moltissimo perché tocca delle cose molto private mie. Invece l'altra domanda la rispondo molto semplicemente, che nel momento stesso in cui la Cocchiara si accorse che la sua vita era molto vecchia, a parte non si sapeva mai quanti anni avesse, chiaramente, che la sua vita aveva raggiunto il culmine e non poteva neanche aiutare l'unica persona che lei veramente amava, ed era questa figliastra, che non era sua figlia, nel momento stesso in cui capì che il senso della vita praticamente per lei gli cadeva dalle mani, decise di morire. Questa è una cosa molto importante, perché in realtà io sono dell'opinione che si muore soltanto quando si decide di morire, e mai prima. Di qualcosa di cui si è coscienti dipende moltissimo, c'è anche il caso di morte improvvisa, tutto quanto, ma a una certa età si arriva il momento in cui uno dice: io ho concluso, non ho più niente da fare. E allora lei si è lasciata letteralmente morire. Questa è una cosa, in questo modo pensava di fare l'ultimo, l'unico gesto che poteva essere di aiuto alla figlia, e questa è una cosa estremamente, estremamente pesante e triste, perché non funzionò neanche questo, perché la vita è molto ingiusta. Però ha scelto comunque, insomma, ha scelto di morire. Quindi scelse di morire anche perché era sola ormai, era sempre con quest'altro figliastro che non, cioè lei aveva perso il senso fondamentale della sua vita, che era questa figlia. E siccome proibirono la famiglia di lei, proibì a questa giovane di avere a che fare con la madre, lei si sentì completamente inutile. E questo è anche uno dei temi fondamentali della vita: si vive finché si ha il senso dell'utilità della propria vita. Quando poi a un certo punto arriva il momento in cui uno si accorge che non serve più a nessuno, ed era il caso suo, non serve più la mia vita, a chi serve? Allora tanto vale morire. E questa è una delle cose più, trovo io, drammatiche nel libro, come giustamente nota lei, e che con il mio sistema, purtroppo, che ho quello di tagliare sempre e spezzare le situazioni drammatiche, perché altrimenti diventa un po' forte. Ma il non detto a volte è più forte del... Sì, esattamente quello che dici, giusto. C'è qualcun altro ancora? Ma io volevo solo chiederti, dopo tanti libri che tu hai scritto, direi con toni piuttosto drammatici, forti, spesso pesanti, no? Nella situazione, finalmente devo dire, in questo libro trovo anche una certa leggerezza, ironia, piacere. Ecco, che cos'è che ti ha così cambiato nella tua scrittura, in questo passaggio, che io trovo, insomma? Ti ringrazio molto, veramente, perché questo è un grande complimento che mi fai. Normalmente vengo sempre accusata di dramma e così, invece, certo, è vero, è una storia di per sé, tutte le storie di questo libro sono di per sé molto drammatiche, che bisognava veramente alleggerirle un po', altrimenti sarebbe stato insopportabile. E posso assicurarti che queste storie le ho scritte forse 5, 6, 7 volte, cercando sempre di alleggerire e di facilitare la situazione. È un lavoro di una vita, posso dirlo, un lavoro di una vita. Ti ringrazio molto di questo riconoscimento, sono molto grata. Io volevo solo aggiungere a quello che ha scritto lei, che la valle, la comunità chiusa della valle, influenza negativamente o positivamente, in questo caso negativamente, sulla donna nella sua vita, in tutto quello, nei suoi comportamenti, eccetera. Io sono nato in una isola linguistica in montagna, in Sicilia. Anche lei è un siciliano? Mamma mia! Quale isola è in Napoli? No, provincia di Messina, sono fatti acque di fronte alle isole Eolie. Ah. È il paese, uno dei villaggi più belli d'Italia, Novara di Sicilia. Non lo conosco. Dove si parla il gallo italiano. Dai, ma questo non lo so. È due terzi di Ligure e uno di Lombardo. Lombardia, ma questo è favoloso. Lugo Abate ha costruito la sua prima chiesa da cistercense nel villaggio di Badia Vecchia, dove io sono nato. Dicevo, questo era un inciso, a casa mia, mia madre che ancora vive giù in Sicilia, 94 anni, complimenti, la in montagna, montanaria, anche quella se ha 650 metri, certo. Sì. Mi ha detto un giorno, perché l'ho fatto notare qualcosa che non andava, questo non molti anni fa, mi ha detto: ricordati una cosa, figliolo, io sono nata libera. Complimenti, complimenti. Ma questo nel paese, io adesso, che sono dal 63 a Bolzano, ci ritorno quasi tutti gli anni perché c'è la mamma, certo. Le donne, che adesso sono pochissime perché sono tutte scomparse o quasi, le donne avevano una forza incredibile. Non dico che c'era una famiglia matriarcale, ma forse dipendeva dalla situazione linguistica, forse dipendeva quindi non solo climatica, certamente. Climatica. Certamente. Quando ci si spostava e si andava verso Milazzo, verso Tindari, verso il mare, notavamo questa differenza. Linguistica? Non solo, linguistica sicuro. Sì. Perché lei sicuramente avrà imparato la parola cutello, e a casa mia si dice cutello. Dai, questo è incredibile. Lei sicuramente dirà uvino, e io dico uvegno. Allora, io vorrei specificare una cosa: il dialetto siciliano non esiste. Ci sono diversi dialetti per ogni parte della Sicilia. Tanto è vero che i siciliani tra di loro non si capiscono. Mia moglie, che questo lo sappiamo. Cioè, non riesce a capire i siciliani. Chiaramente, infatti, è proprio vero. Perché erano molto isolati, ognuno per conto proprio, e allora non c'è stato un vero dialetto. C'era però un dialetto siciliano letterario. Che per tutta la Sicilia. Questa è un'altra cosa. Ma i veri siciliani fra di loro non si capiscono. Questo è un esempio favoloso, veramente. Noi purtroppo del gallo italico abbiamo pochissimo, piccole cose, guardiamo qualche, quindi sta scomparendo, solo è rimasto in una decina di comuni. E poi basta. È interessante, veramente. La ringrazio di questa testimonianza, sì. Molto interessante. Bene. Se non ci sono altri interventi, passerei ai saluti. Direi che la sintesi, non aspettare il tempo, è stata una serata ricca, anche di umanità e di riflessioni, oltre che al di là della presentazione ufficiale. Vi saluto e ringrazio anche la Biblioteca Provinciale per l'ospitalità. Non prima di avervi ricordato che avete la straordinaria possibilità, semplicemente uscendo, di acquistare il libro di Adalda Perizzucca allo stand che adesso ha vestito qui in fondo alla sala. Grazie, però vorrei dire un'ultima parola a Valeria Trevisan. Vorrei dire soltanto questo: in realtà Valeria Trevisan ha battezzato tutti i miei libri, dal primo all'ultimo, e le sono estremamente grata. Alla biblioteca. No. Sono molto, molto grata. Grazie. Sì. Allora, e ringrazio tutti di essere venuti così numerosi, veramente un piacere.